36esima puntata di Restiamo Animali, domenica 4 novembre 2012, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. In redazione Camilla Lattanzi, Silvia Vallecchi, Lorenzo Guadagnucci, Elisa Moretti, Tommaso Gambassi e Valentina Reggioli. Una bella notizia, fiocco azzurro nella redazione di Restiamo Animali. Da oggi abbiamo una new entry, Tommaso Gambassi, nuovo redattore e un nuovo collaboratore. Trattasi di carissimo amico, direi amico del cuore della Valentina, e quindi dovremo fidarci di lei. Ma è vegano? Diciamo vegano non praticante, vero Tommaso? Non proprio. Perché hai deciso di collaborare? Ho sempre avuto la passione sia della voce, sullo studio della voce, che la radio. Che cosa fai nella vita? Faccio assistenza informatica nell'Università Europea di Fiesole. E a parte il lavoro, che cosa ti piace fare? Cantare. Sono un cantante da 12 anni, non sono un musicista, però canto insieme a Valentina in un coro, si fa musica etnica, ebraica, un po' di tutto. Potremo quindi contare su di voi per un bellissimo inno animalista. Un inno animalista, certo, sì. La faremo? Ce la facciamo. Da buona contralto da doccia, assolutamente partecipante. Tommaso Gambassi, benvenuto nella redazione di Restiamo Animali. Il montaggio di questa trasmissione è a sua cura, giudicate voi. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Grazie a me, informatori del canile, ho conosciuto Maria, una delle gattare più attive sul territorio di Sesto Fiorentino. Per il nostro appuntamento, accompagnato da intervista e gita alle colonie feline di cui lei si preoccupa, ci siamo dati appuntamento davanti alla clinica veterinaria di Sesto Fiorentino, che come mi racconta è diventata come la sua seconda casa, viste le continue urgenze nelle colonie di cui lei si occupa. Maria si presenta al nostro appuntamento con l'immancabile tanica d'acqua, sacchetto di croccantini e torcia, necessario soprattutto dal momento che la signora si muove molto presto la mattina. Si raccomanda inoltre più volte di non descrivere il posto in cui ci troviamo, perché ha paura che malintenzionati facciano del male ai suoi gatti. Maria, ci vuoi raccontare un po' qual è la tua esperienza, come hai iniziato a fare la gattara? Ho iniziato quando ho smesso di lavorare nel 2008, perché prima conoscevo tutto quello che c'è attorno. Gatti ammalati, gatti non seguiti. Piano piano con altri ci siamo organizzati per seguirne alcune. Conosciuto quelle già storiche, le gattare storiche, e poi sto seguendo quattro colonie, una di cui è questa, zona Rimaggio, a Sesto Fiorentino. Qui ci sono due rifugi per il cibo. Io vengo la mattina prestissimo, circa 5:45, 5:50, estate, inverno, con la pila quando è buio. Così mangiano, si rifugiano dove credono, devono passare più inosservati possibile per sopravvivere. Sono sterilizzati. Chi è che si occupa della sterilizzazione, eventualmente delle cure dei gatti? Per adesso solo noi. Fino al 2008, quando c'era l'assessore Billo, aveva organizzato con la Racchetta un'associazione qui di Sesto di recupero dei gatti, portarli alla ASL, farli sterilizzare e dopo la degenza rimetterli dove si prendono, perché devono ritornare per legge nelle colonie. Prima ancora c'era Guida Verde, sempre con lo stesso assessore, e riuscì anche a avere delle convenzioni con i veterinari. Con questo assessore dal 2009 non c'è verso di far niente, tutto a carico nostro. Lo era anche prima, ma almeno c'era un sostegno nelle catture, portarli a sterilizzare. Tra l'altro la ASL nel 2009 interruppe le degenze. Non hanno la possibilità di tenere le gatte 2 o 3 giorni come è necessario, anche un gatto, un po' uno, operarsi e rimettere fuori si condannano a morte. Per legge un'amministrazione che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe seguire le colonie feline, non farle seguire dalle gattaie e basta. Dovrebbe fare convenzioni con chiunque, associazioni che credono loro. Potrebbero fare anche convenzioni con i veterinari privati loro stessi, come capita a Firenze, come capita a Prato e sicuramente in altri comuni. Però loro non vogliono spendere, raccontano balle che hanno una convenzione con la ASL. La ASL per i gatti non danno nemmeno 5 centesimi. La ASL per legge li sterilizza, però devono essere presi, portati, poi rimane il problema della degenza. In questa zona quanti gatti girano, diciamo, di quelli stanziali? Da 10 ai 13 adesso, erano molti, molti di più. Con la nevicata di quest'anno ne sono mancati tanti. sono all'aperto, non vivono a lungo anche curati. Anche curati così, il mangiare assicurato, se si vede uno al raffreddore ci abbiamo sempre gli antibiotici dietro, si guarda di darglielo subito, perché i gatti se smettono di odorare non mangiano più. Che cosa ti porti dietro di solito quando fai il tuo giro? Scatolette, croccantini, acqua soprattutto, che senza l'acqua, sia in estate che in inverno, non possono vivere. Ecco, anche se bevo un po', i gatti hanno bisogno dell'acqua. Ovviamente questi posti dove stiamo andando non hanno allacci, non c'è né luce, né acqua corrente, né niente. No, infatti io viaggio con la pila perché mi alzo prestissimo. Ecco, questa è una colonia non riconosciuta dal comune, non seguita da nessuna persona, tranne che da un anziano che gli butta i ritagli di macelleria. Non c'è nemmeno un riparo qui, vero? Non c'è un riparo, non c'è niente, c'è solo un grande sporco lì a fianco, perché gli è stato chiesto in tutte le salse a questa amministrazione che provveda alle sterilizzazioni dei randagi, perché questa non è l'unica colonia così abbandonata, ce ne sono altre e loro ne sono a conoscenza. Il singolo cittadino che cosa può fare per migliorare un po' questa situazione? Telefonare all'amministrazione di Sesto, all'ufficio ambiente, esporgli quello che noi si è raccontato, insistere che rispettino la legge. È assurdo che un cittadino chieda a un'amministrazione che deve rispettare la legge, ma va fatto, perché questi non fanno nulla. Però se mi diano, cosa ti posso comprare? Prendimi dei croccantini che tanto servono. Ho un'altra colonia, ne seguo quattro. Qui quando vengo sono tutti soldi che ci mettiamo noi di tasca. Qual è l'impegno giornaliero che te hai per seguire questi gatti? L'impegno giornaliero è sicuramente dalle 3 ore. Poi la sera qualcuno manca da un'altra colonia, allora ci si contatta, va uno anziché un altro. Eventualmente se una persona volesse incominciare un'attività come la tua, quindi diventare gattaro, che deve fare? Dare una mano a chi c'è già, chiedendo i telefoni o questo o quello, il mio è dappertutto. Oppure diventare tutore di una colonia, perché le gattaie siano meno aggravate nella spesa e anche nell'impegno. Non facciamo nascere i gatti inutilmente. Ci sono delle colonie, ma già in maniera appena sufficiente. E allora perché devono essere 10, 12, 20, 30 come sono anche nelle colonie? Vanno via a scalare. Facciamo vivere meglio pochi, quelli che già ci sono, e evitiamo le nascite. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Si è svolta ieri, sabato 3 novembre, a Commessaggio, in provincia di Mantova, una manifestazione organizzata da Nemesi Animale contro il progetto di un imprenditore privato che intende aprire un allevamento per 40.000 visoni. Sarebbe il più grande in Italia. L'allevamento doveva essere costruito a Rivarolo del Re, sempre in Lombardia. Ma dopo le proteste degli animalisti, il sindaco ha bloccato tutto, almeno per ora. L'associazione Nemesi Animale ha deciso di non annullare la manifestazione per mantenere alta la protesta e l'ha spostata a Commessaggio, il paese dove vive l'imprenditore. Troverete tutte le info su www.nemesianimale.net e nel nostro blog troverete anche i dossier di Nemesi Animale sulle pellicce. Beatrice Montini, la nostra inviata in Lombardia, intervista un protagonista delle lotte di Nemesi Animale. Siamo con Claudio di Nemesi Animale, un gruppo di attivisti che combattono, fanno azioni per la liberazione animale, come ci tengono a dire loro, di ogni animale, umano e non. Claudio, ci puoi spiegare in breve che cos'è Nemesi Animale? Nemesi Animale è un progetto che è nato poco più di un anno fa. Nasce da attivisti che in passato avevano partecipato a campagne di protesta sulla vivisezione, sulle pellicce o in altri ambiti, ma che hanno voluto cercare di fare un progetto a 360 gradi sullo sfruttamento animale contro quella che noi definiamo la schiavitù degli animali, quindi la loro relegazione al ruolo di schiavi in questa società, prodotti di consumo, macchine da riproduzione negli allevamenti. Quindi vogliamo parlare a tutto tondo di ciò che è il rapporto tra uomo e animale in questa società. e contrastarlo in vari modi. Tra vari argomenti di cui vi state occupando, oggi vorrei parlare con te di allevamento di cosiddetti, con un bruttissimo termine, animali da pelliccia. Mentre anche dopo le proteste animaliste degli anni 80-90 la pelliccia era un capo di abbigliamento che in qualche modo sembrava destinato a scomparire, oggi ai noi sembra che la moda lo abbia riscoperto. Quindi ad esempio vediamo in giro per le strade molti cappotti, giubbotti con inserti di pelliccia. Voi vi state mobilitando su questo argomento, avete organizzato un presidio il 3 novembre a Commissaggio in provincia di Mantova contro il progetto di costruzione di un nuovo mega allevamento di visoni e portate avanti varie iniziative di sensibilizzazione per le strade e nelle piazze soprattutto di Milano. I trend della moda sono come sempre altalenanti, quindi se l'inserto in pelliccia qualche anno fa era visibile in maniera spropositata, poi è crollato e adesso sta tornando, fa parte purtroppo di questa industria. È un'industria che noi cerchiamo di contrastare soprattutto con l'informazione, la sensibilizzazione. Le proteste che invece stiamo cercando di fare, che abbiamo organizzato per il 3 novembre, che fanno parte di un progetto più ampio che a breve presenteremo, contro gli allevamenti, invece fanno parte del tentativo di arrivare all'abolizione, la chiusura di tutti gli allevamenti di animali da pelliccia in Italia. Facciamo un po' di numeri. Sul vostro sito ho visto che parlate di 35 milioni di visoni uccisi in Europa, soprattutto gli allevamenti sono in Nord Europa, ma anche in Italia ci sono allevamenti di visoni. Ci puoi dare qualche numero? In Italia gli allevamenti di visone cercano di nascondersi, quindi non c'è una lista precisa, anche scovarli non è facilissimo. I numeri di cui si ha conoscenza sicura sono poco più di 10, si va nell'ordine della quindicina. L'Associazione Italiana Allevatori Visoni ha recentemente detto che sono 20. Un tipo di allevamento che anni fa era sicuramente in declino, dai 120 registrati negli anni 90 si era arrivati a una decina di questi anni, con una produzione, brutto termine, di 150.000 pelli l'anno. Adesso abbiamo scoperto l'allevamento di Montirone in provincia di Brescia, aperto da 2 anni. L'allevamento contro cui ci mobiliteremo a Commissaggio in realtà voleva essere aperto a Rivarolo del Re in provincia di Cremona, con una capienza enorme di 40.000 visoni. Quindi sono tutti progetti che vanno in contrasto con quello che era il trend degli ultimi anni. Come dicevi e come succede sempre negli allevamenti, questi allevamenti sono nascosti, non si vedono, non si sa esattamente cosa succede dentro, ma com'è la vita di questi visoni dentro un allevamento? I visoni negli allevamenti crescono e muoiono in una gabbia di rete metallica sollevata dal terreno, non toccano mai l'erba, non possono mai toccare l'acqua, il loro elemento potremmo definire quasi naturale, perché vivono gran parte della loro vita lungo i corsi d'acqua e sono grandissimi nuotatori, e invece sono costretti a girare su se stessi tutta la giornata e in gabbie di 40x50 centimetri. Questa è la loro vita, una vita di noia, sofferenza, stress, quindi una vita in cui da animali selvatici sono relegati a semplicemente degli oggetti, delle merci. Come vengono uccisi invece i visoni poi alla fine? L'uccisione avviene tramite camere a gas prevalentemente, quindi l'allevatore passa con diciamo una carriola su cui è presente una camera a gas dove butta dentro gli animali e li uccide. Altri metodi avallati, diciamo a norma di legge, sono per esempio rompere le ossa del collo. Un altro metodo sempre a norma di legge, parlo delle leggi italiane, quindi ciò che potrebbe accadere, che magari non è la norma, è sparare un chiodo nel cervello. E questi sono tutto ciò che fa parte delle leggi sul benessere animale negli allevamenti in Italia. E questa è una realtà che molti non conoscono e, come dicevi prima, è nascosta. Gli allevamenti di visone, molte persone non sanno nemmeno che esistano o che esistano qua in Italia, e ogni volta che ne parliamo e facciamo vedere, come sabato scorso, le gabbie dei visoni nel centro di Milano, siamo riusciti comunque a catturare molto l'attenzione di persone che non sapevano assolutamente cosa accade a questi animali. Quindi la sensibilizzazione è sicuramente un modo, uno strumento importante per arrivare alla chiusura definitiva anche di questi allevamenti. Sicuramente convincere le persone a non vestirsi di cadaveri animali è la cosa più importante, perché è da lì che poi l'industria della moda farà delle scelte, farà dei cambiamenti, e quindi non ci sarà più la richiesta. E anche per questa puntata da Milano è tutto. Un saluto agli ascoltatori di Restiamo Animali da Beatrice Montini. Ciao! Il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, che già quest'estate aveva invitato i suoi concittadini a lasciare fuori dalla porta di casa una ciotola d'acqua per gli animali vista la calura, ha emesso il 25 ottobre un'ordinanza che vieta sul territorio cittadino qualsiasi spettacolo circense che utilizzi animali. L'ordinanza non si limita al divieto relativo ai circhi, ma prevede una serie di norme e divieti per garantire il benessere e la tutela degli animali. In particolare, contro lo sfruttamento per accattonaggio e la vendita, contro l'abbandono, contro l'addestramento violento dei combattimenti e per stabilire che il trasporto degli animali d'affezione e non avvenga in modo da non provocare privazioni e sofferenza. Abbiamo in linea il sindaco Gonzales, a cui chiediamo da cosa scaturisce la decisione di emanare adesso questa ordinanza. Ma noi abbiamo emanato questa ordinanza perché abbiamo avuto dei problemi legati alla presenza nelle fiere dei santi patroni di animali in vendita in maniera assolutamente non ammissibile, non accettabile, perché le condizioni in cui vengono tenuti questi animali proprio in queste occasioni non è delle migliori. E poi ci siamo posti il problema anche di allargare questo discorso ai circhi che si vengono ad esibire, che portano il proprio spettacolo qui. Abbiamo detto che il circo per noi va bene, ma non deve comprendere, come dire, numeri che prevedono l'esibizione di animali, perché questo va ad alimentare una situazione di grave sofferenza per questi animali, per queste bestie che vengono tenuti nei circhi nella maniera in cui voi ben sapete. Del resto la cronaca parla chiaro anche in riferimento a queste vicende. Cosa ne pensa della manifestazione nazionale indetta a Roma il 1° dicembre in occasione dell'incontro tra il Papa e l'Ente Nazionale Circhi, volta a sostenere un circo senza animali? Ma io penso che vada verso una scelta di progresso e anche una scelta di capacità professionali, nel senso che i circhi sono benvenuti anche nella città di Brindisi, a condizione che sappiano proporre degli spettacoli in cui siamo noi esseri umani a mettere in campo le nostre capacità e soprattutto a mettere in campo la nostra buona intenzione di fare spettacolo. Perché utilizzare gli animali? È una situazione assolutamente inaccettabile. Lo penso a livello personale ed è per questo che ho emanato un'ordinanza di questo tipo. Oltre alle ordinanze e alle normative, cosa ci può garantire nei fatti un maggior rispetto dei diritti degli animali? Ma guardi, noi stiamo allestendo per esempio dei dog park all'interno della nostra città, stiamo alimentando e aiutando le gattare, perché comunque riteniamo che gli animali domestici debbano essere rispettati, vietiamo la vendita di animali all'interno delle fiere, non consentiremo l'anno 21 lo svolgimento della fiera in cui vengono esibiti gli animali, vengono messi in mostra gli animali e vivono all'interno di gabbie in situazioni assolutamente paradossali. Quindi bastano piccoli gesti per cominciare ad avere rispetto degli animali e per cominciare a capire che davvero anche noi possiamo fare qualcosa per risolvere questo problema. Da cosa nasce la sua sensibilità animalista, posso dire? Ma guardi, io ho 3 cani per esempio, e altri animali domestici in casa, cerco di dare anche io il mio contributo, poi è una cosa che non si costruisce, è una cosa che per molti versi è innata e per me è così. Restiamo animali? Certo, restiamo animali. Silvia, che cosa sta facendo Renzi per gli animali? È in pullman. Magari li investe. Adesso? Speriamo prenda esempio dal sindaco di Brindisi. E dalla sua ordinanza. Ma quando? Adesso. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao, sono Sara e oggi vi spiego come preparare un delizioso strudel salato, ripieno di funghi e patate. Gli ingredienti sono, per la pasta, 250 g di farina di farro, 40 g di olio extravergine d'oliva, un bicchiere di vino bianco, un cucchiaino di bicarbonato, sale, pepe e qualche cucchiaio d'acqua tiepida. Per il ripieno invece ci servono uno spicchio d'aglio, 2 cipolle bianche piccole, 3 patate medie, 200 g di funghi freschi, una manciata di olive verdi, un rametto di rosmarino, un rametto di prezzemolo, un cucchiaino di curry e un cucchiaio di semi di sesamo, più sale e pepe. Impastate velocemente gli ingredienti per la pasta. quindi la farina, il bicarbonato, sale, pepe. Aggiungete gradualmente olio, vino bianco e acqua poco alla volta, sino ad ottenere un composto bello liscio e sodo. Mettetelo a riposare al fresco. Nel frattempo preparate il ripieno. Fate soffriggere in padella lo spicchio d'aglio e gli aghi di rosmarino finemente tritati. Aggiungete le cipolle tagliate fini. Dopo qualche minuto versate anche le patate e i funghi tagliati a tocchetti, le olive verdi tritate e il curry. Aggiustate di sale e pepe, bagnate con un po' d'acqua calda e fate cuocere per almeno 10 minuti un quarto d'ora. Le patate dovranno diventare molto tenere, quasi cremose. A fine cottura togliete dal fuoco, aggiungete il prezzemolo tritato e i semi di sesamo. Fate raffreddare un pochino sulla finestra. Ora stendete con il mattarello la pasta, rendendola bella sottile. Bucherellatela con una forchetta. Versateci sopra il ripieno di funghi e patate, spalmandolo per bene con un cucchiaio. Arrotolate dal lato lungo la pasta, formando lo strudel. Attenzione a non romperla. E sigillate bene i bordi. Fate tre piccoli taglietti sulla superficie, quelli classici da strudel, per far fuoriuscire il vapore del ripieno durante la cottura. Spennellate tutto con un po' d'olio e cuocete in forno caldo, almeno a 180 gradi, per circa 35 minuti. A fine cottura lasciatelo raffreddare un po' prima di servirlo o rischia di rompersi. Potete gustarvelo tiepido, ma è ottimo anche i giorni successivi. Ciao, alla prossima! Sostiene Vallauri. Quando si parla di non violenza, io mi chiedo se siamo nel quadro di un'etica precettistica o di un'etica sapienziale. Io chiamo precettistica quell'etica dei comandamenti divini o dei principi razionali filosofici, e in questa etica, diciamo, il valore, per esempio, di giustizia di un atto è fine a se stesso. Invece nell'etica sapienziale magari le stesse idee, supponiamo appunto la non violenza, non sono fini in sé, ma sono orientate a dei raggiungimenti, a dei conseguimenti spirituali superiori, per esempio alla liberazione, moksha in sanscrito, all'illuminazione, satori in giapponese, e quindi invece che comandamenti sono piuttosto dei consigli, e invece che dei peccati, le violazioni dell'etica sono piuttosto degli ostacoli a dei raggiungimenti superiori. Ora io mi chiedo se in fondo la non violenza, tanto più quanto più è radicale, non appartenga a questa seconda etica, cioè un'etica dell'appello alla perfezione, agli stati sublimi che il corpo mente umano può raggiungere. Questo vale anche naturalmente della non violenza sugli animali. La non violenza fa bene al non violento come la violenza gli fa male. Ho già detto che è vistoso il contrasto tra la non violenza e le religioni, e allora, se è vero quello che ho appena detto, è vistoso il contrasto tra la spiritualità e le religioni, perlomeno le religioni istituzionali. Il cattolicesimo romano, come diciamo organizzazione, è certamente tra i soggetti più violenti della storia, o in prima persona o con i suoi bracci armati, che sono stati le nazioni cristiane. La non violenza è come un filo di acqua sterile, di acqua pura, che non si confonde al fiume di sangue della storia. Ci si può chiedere se non sia addirittura una complessiva visione del mondo ancora inesplorata. Ci sono filosofi contemporanei come Buber, Levinas, Capitini, Albert Schweitzer, che ne sono stati profeti, ma come dicevamo l'altra volta, ha una storia minoritaria di millenni. Io credo che tra i più poetici profeti della non violenza ci sia proprio Capitini. Cito per esempio una sua frase: la non violenza è attenzione e affetto per ogni singolo essere proprio nel suo essere lui e non un altro, per la sua esistenza, libertà e sviluppo. È dire un tu a un essere concreto e individuato, è avere gioia che esso esista, che sia nato, e se non fosse nato gli daremmo noi la nascita, assumiamo su di noi l'atto del suo trovarsi nel mondo. Siamo come madri. La non violenza non è la sostituzione di certi mezzi ad altri, fermo restando tutto il resto. La non violenza introduce una dimensione nuova, anticipa una realtà diversa. È una sospensione di attivismo che è attivissima moltiplicazione di attenzione, potenziamento della vita interiore. In particolare il vegetarianesimo, questa sospensione introdotta nella leggerezza sterminatrice e nella freddezza utilitaria, si riflette in accrescimento di valore interiore. Significa, lasciate alle spalle le religioni istituzionali dogmatiche, entrare nella religione aperta, una religione che è quotidianamente da inventare. La non violenza è artistica, come la pittura o la musica. Se dovessi usare parole mie, direi la non violenza è un generalizzato in punta di piedi. Mi ricordo la foto di un tallone, di una suola di Vibram e di una specie di cannone fotografico, il turismo violento che calpesta i popoli, ecco, un in punta di piedi. È sempre imperfetta, lo dicevo anche l'altra volta, perché questo ci tormenta, perché un vivente è un sistema che si autoasserisce a danno degli altri, quindi c'è una specie di inimicizia tra la vita e la non violenza, però poi si scopre che nella non violenza, specialmente nell'attuale situazione di dominio totale dell'uomo sul pianeta, c'è quasi anche una necessità razionale. Senza non violenza siamo forse condannati a morte. Se dovessi dire quello che mi innamora nella non violenza è un accenno che si trova nell'iniziazione Kalachakra di Naropa, e che con le mie parole esprimerei così. Tutti noi abbiamo un amore folle per qualche essere umano, che può essere una donna, un nipotino. Beh, la non violenza non sarebbe un amore universale, generico, anonimo. Sarebbe riuscire a riportare col pensiero o con gli atti su ogni essere vivente l'ingiustizia di quell'amore folle, e quindi al tempo stesso universale e individualissima, geometrica e estremamente ingiusta. Ecco, non è la filantropia stoica. Naturalmente è un ideale che ci orienta, nessuno di noi può vivere a questa altezza, però se non altro affina e consuma continuamente la nostra sicurezza di essere dei giusti. Muore per colpa della superficialità del veterinario, questo deve pagare non solo per i danni patrimoniali, ma anche per quelli extra patrimoniali. Lo ha stabilito un giudice di pace di Dolo, in provincia di Venezia, nel caso di un Labrador Retriever di 7 anni di nome Camilla, morto per peritonite acuta causata dall'ingestione di ossa. Il giorno precedente, il veterinario, senza nemmeno visitarla, le aveva prescritto solo un lassativo. La clinica veterinaria aveva fin da subito respinto le richieste di risarcimento del danno arrivate dal proprietario del cane, in quanto il danno non era considerato risarcibile. L'idea opposta è stato invece il giudice di pace, che ha determinato il danno patrimoniale da risarcire stimandolo nel prezzo pagato per l'acquisto dell'animale e necessario per un eventuale nuovo acquisto. Oltre a questo, però, il giudice ha ritenuto risarcibile anche il preteso danno morale. Dalla normativa in materia di tutela di animali, infatti, si ricava come lo Stato sia consapevole del particolare legame che si instaura tra animale e padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo tra proprietario e bene. Pertanto, non vi è dubbio che il rapporto tra animale e padrone debba inquadrarsi in quel tipo di attività realizzatrici della persona cui la stessa Carta Costituzionale mostra di dare tutela. Per questo motivo, il giudice di pace ha condannato la clinica veterinaria anche al pagamento di ulteriori 2.500 euro per danno non patrimoniale. Come redazione di Restiamo Animali accogliamo con favore la sentenza che condanna un veterinario che con tanta faciloneria aveva liquidato un caso che forse avrebbe richiesto maggiori attenzioni, condannando così a morte un cane che forse avrebbe potuto salvarsi. Valutiamo inoltre come positivo il fatto che sia stato risarcito anche il danno non patrimoniale, quindi riconoscendo come danno alla persona e come impoverimento della sua vita di relazione. Contemporaneamente però disapproviamo il fatto che ancora una volta, quando si tratta di animali d'affezione, si parli sempre di proprietà, di danno economico, di bene e di attività realizzatrice della persona, relegando l'animale al rango di oggetto posseduto e non soggetto portatore di diritti. Sabato 10 novembre, dalle 15, saremo in piazza Manzoni a Montirone, Brescia, per manifestare contro l'allevamento di bisoni dei poli Bellina. Naturalmente vogliamo l'immediata chiusura di questo lager, che detiene oltre 3.000 bisoni, la maggior parte dei quali saranno uccisi con metodi incredibilmente cruenti, proprio verso metà di novembre. In Italia restano poco più di 10 allevamenti di animali da pelliccia. Il Depoli Bellina vuole essere soltanto un primo obiettivo simbolico di tutta questa industria, di cui questo paese deve liberarsi il prima possibile. Manifesteremo al fianco della popolazione di Montirone, esausta di ospitare un luogo come Depoli Bellina, che uccide migliaia di animali per motivi totalmente inutili ogni anno e che inquina l'aria e le acque del paese. Un pullman farà tappa anche a Firenze. Per le informazioni, mandare un'email a gat.pullmandellaliberazione@hotmail.it. Potete trovare tutte queste informazioni sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Affrettatevi, ci sono ancora pochi posti, mi raccomando. La notizia è che Coppa Italia ha ottenuto il premio Leader 2012 assegnato dalla Compassion in World Farming, un'organizzazione che si occupa del cosiddetto benessere degli animali di allevamento. Sembra che Coppa Italia si sia distinta per gli interventi in favore delle galline ovaiole e dei poli da carne, migliorando le loro condizioni di prigionia, anche andando oltre le indicazioni di legge. Claudio Mazzini, responsabile del settore sostenibilità, innovazione e valori di Coop Italia, ha commentato l'assegnazione del premio dicendo che per Coop la salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita sono pilastri della propria azione, insieme con l'innovazione e la tutela del potere d'acquisto. Nel 2012, al culmine di una fase storica di iperconsumismo che per gli animali comporta un'intensità e un volume di sofferenza e di morte che non ha eguali nella storia, e di fronte al disastro ambientale che si profila ormai all'orizzonte, forse il concetto di innovazione e quello di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita, per andare davvero insieme, dovrebbero spingere Coop Italia in una nuova direzione, che non è quella delle leggere migliorie alle condizioni di prigionia di moltitudini di condannati a morte. Limitiamoci alla questione ambientale e pensiamo a quanto sarebbe innovativa, intelligente e anche salutare per i corpi e per gli spiriti una campagna vera, seria, contro il mangiare animali e per promuovere un'alimentazione a base vegetale. Sono i maggiori scienziati, gli studiosi dei cambiamenti climatici a indicare la via dell'abbandono degli allevamenti come un passo necessario per proteggere il futuro del pianeta. Ma chi sarebbe nelle condizioni di fare davvero qualcosa sembra sordo ad ogni considerazione. Certo, non possiamo caricare sulle spalle di Coop Italia scelte che competono agli organi politici e che dovrebbero coinvolgere tutti i cittadini. Ma è anche giusto invitare Coop Italia, che si ritiene attenta ai valori di giustizia e di uguaglianza, nei quali il movimento cooperativo affonda le proprie radici, a riflettere meglio e di più sulle proprie scelte e anche sul vero senso dei premi che riceve. Interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Potete scriverci a restiamoanimali@controradio.it. E non dimenticate la nostra puntata infrasettimanale il giovedì alle 9.55 e in replica alle 15.40. Quindi a risentirci il giovedì 8 novembre. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Auguri!